come fosse tu un giardino di marzo. Tu l'amore d'un tratto, un petalo in un fiume perso. Amore, amore d'un tratto che segue la corrente all'inverso. Amor, amore, amore, amore d'un lampo, come se fossi un libro aperto per te. Tu amor come un tuono, un lampo di sangue, un verso a cielo aperto, a cuor fatti da parte nemico. A cielo aperto col cuor, tu che fai di me un giorno perso. A cielo aperto col cuor ferito, amor qui ti dico, tra le stelle lo scrivo, per sempre sei te. Da un amico e dammi un'emozione che è un brivido, e fare a botte per te, come se la mia vita fosse quella inutile di uno sciagurato. Dammi un brivido che non finisca, non un livido. Amor, che tu sei d'un tratto un'esplosione che fa me più povero dimenticato, un'illusione per sé. E dammi un'emozione che non muoia mai, un sogno estremo pieno di guai. Ma ora ci sei, non sei sola nella mente. Amor, amor che nulla amato amar perdona, mi prese del piacer sì forte che, come vedi, dammi la tua mano su questo mondo di infami e li stritoleremo pieni di guai, noi piangendo mai. Che, come vedi, a mani tese ti stringono, non vedi, testa alta e pugni tesi contro muri. E anche se abbiamo avuto un primo amore, adesso siamo stretti in quello che è amor che esplode. Ah. E noi saremo mai resi. Ah. E ridaremo tutti i pugni che ci saremmo presi. Amor, amore, amor. Se this song is not perdu, fango sulle mani avec tu degli scrittori come sberle di professori inutili, come lezioni mai ascoltate mentre ascoltavo te prendere il volo, baby. Amor che rimani qui tra le mie pagine.